Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un genere particolare, in genere molto fortunato, quello delle biografie, e comincio con un libro che ci presenta una serie di biografie brevi, brevissime, quasi delle novelle, e sono delle biografie curate da Silvia Ronchey nel libro Il guscio della tartaruga, vite più che vere di persone illustri, pubblicato da Nottetempo, 244 pagine, 15,50 €. Qui troveremo 66 ritratti di pochissime pagine, nelle quali non c'è la vita dei personaggi ritratti da Agostino a Zenone di Cizio, ma pochi fulminanti tratti che sintetizzano personalità spesso notissime di tutti i tempi e di tante professioni. C'è Catullo, c'è Kerouac, c'è il Degarde di Bingen, c'è Saffo, c'è Marco Aurelio e c'è Nietzsche. Ma cosa c'è in comune fra queste figure? L'editore, per scoprirlo, rimanda anche a un gioco telematico, ma forse ci può aiutare anche l'autrice. Buongiorno a Silvia Ronchey. Buongiorno. Signora Ronchey, come ha scelto questi personaggi della sua raccolta? Sono sicuramente nello scaffale, anzi negli scaffali, dei più amati, però mi sono caduti in testa per caso, non sono stati in realtà davvero scelti. E qual è il tratto comune che ha voluto cogliere in queste figure? Il tratto comune è la parola, è la vita nella parola. In questo senso sono chiamate vite più che vere, no? Nel senso che da un lato non è facile raccontare la vita di un classico, o si scrive una voce di dizionario o la si ricrea, la si ricompone. Se la disperata casualità della vita individuale e contingente è sostituita dalla altrettanto disperata ma universale necessità di ciò che di ciascuna vita è rimasto oltre il tempo, cioè le opere, le parole, ecco che la vita non sarà forse vera, ma sarà più che vera. Quindi appunto la parola, l'opera e il reticolo di scaglie dell'esperienza e della conoscenza che in qualche modo compone questo sistema di relazioni che è la letteratura e che quindi non può non accomunare ciascuno di questi, tra virgolette, santi laici, santi scrittori. E quindi con che spirito si deve accostare il lettore di oggi a questa raccolta? Che filo deve cercare? Ma io penso una cosa. La nostra epoca è un'epoca in cui si sente il bisogno di fedi, no? A volte di religioni, e a volte si esita fra l'una e l'altra, ci si converte con disinvoltura, i cultori di fedi secolari che si convertono all'antica fede oltremondana della Chiesa cristiana, i cristiani che diventano buddisti o neopagani e così via. Però c'è un culto minore, non meno antico, dei più antichi, che è appunto quello della letteratura e della ricerca infinita del sapere o della sapienza. Un culto i cui santi sono gli scrittori e i pensatori che hanno scritto, a qualsiasi fede o religione poi siano appartenuti in 3.000 anni di storia, avendo avuto fede nella scrittura e vita eterna in lei. Quindi ciò che va cercato, quello che io spero si trovi in questo nume tutelare del culto salvifico che è la tartaruga, che avanza lenta ma è più veloce del più veloce Achille, che esplora gli abissi del mare, cammina sottoterra nel sottomondo, appesantita ma anche protetta dal suo guscio fatto di tante scaglie quanto sono le parole e la vite, di questa compagine di uomini e donne antichi e moderni. Ecco, io spero che in queste vite più che vere si stringano insieme degli insegnamenti di vita attraverso la scrittura, degli insegnamenti magari disperati, ma attraverso i quali chi le ha vissute possa trasmetterci come vivere meglio attraverso appunto questo culto laico, questa religio fatta di legami letteralmente e etimologicamente. Le faccio la stessa domanda che ho fatto domenica scorsa a Giuseppe Scarafia. Quale personaggio le è più simpatico di questi che ha esplorato? Ma dunque, sono tutti amabili, però devo dire che le donne scrittrici, le sante, che sono tra l'altro spesso sante in senso letterale, come il Degarda di Bingen o Teresa o la stessa Saffo, ma sono simpatiche per tanti motivi e fra l'altro perché a mio avviso è importante che ci si renda conto che la scrittura femminile, o meglio che la sapienza, perché di questo stiamo parlando, la sapienza di vita femminile è come un fiume carsico, sotterraneo, c'è sempre stata, solo che più di rado si è espressa in scrittura. Nella maggior parte dei casi è accaduto quando non c'erano uomini al fianco di queste donne, questo avveniva per Santa Teresa e per Ildegarda di Bingen perché stavano nei monasteri, per Saffo per altri motivi, in fondo anche lei era una sacerdotessa, come la chiama Alceo. E quindi queste donne, queste sante scrittrici, sante da tutti i punti di vista, oggi soprattutto in cui si cerca di trovare protagoniste donne, magari anche della vita civile, della vita politica, e magari la selezione si fa in maniera poco saggia, ecco, penso che con la loro saggezza dovrebbero dare un'indicazione, quindi mi stanno simpatiche anche per questo, perché alzano un po' il dito e cercano di riportare i lettori e un po' tutti quelli che le amano anche a questa consapevolezza, cioè attenzione, l'intelligenza femminile è grande, noi ci accorgiamo se voi ci state trattando male, se voi ci state selezionando all'incontrario, se voi non avete fede in noi sante. Quando le hanno consegnato la prima copia, lei l'ha sfogliato e quindi non c'era più nulla da fare sul libro, si è pentita di non aver inserito qualche personaggio? Ma no, io devo confessare che i più amati di tutti non li ho inseriti, perché quando l'amore è veramente fortissimo non ci sono parole, non ci sono, è veramente troppo difficile. Quindi certamente mancano dei santi straordinari, dei santi più santi. Per esempio? Non lo so, manca Dostoevsky, manca Tolstoi, manca Goethe, manca Stendhal, manca Thomas Mann, mancano quasi tutti i bizantini e se ne potesse, si potrebbe continuare. Ma questo era un tiro di dadi, come ho detto, questi libri mi sono letteralmente caduti in testa, nel senso che mi hanno dato la possibilità di cercare di raccontare i loro autori, almeno spero, credo, io ci ho provato. E appunto è un po' come un invito a cena, no? Ci sono uno fissa una data e vede chi c'è in quel momento e chi in quel momento è in grado di conversare, ma con i grandi amori è abbastanza difficile intrattenere una conversazione. E quindi aspettiamo il prossimo colpo di dadi. Vediamo se arriva. Grazie Silvia Ronchey, buona domenica. Grazie mille. Passiamo invece a un'autobiografia breve con Il quaderno rosso di Benjamin Constant, La mia vita 1767-1787, pubblicata da Robin, 180 pagine, 10 euro. Lui è uno dei personaggi più interessanti dell'Ottocento, vissuto appunto tra il 1767 e il 1830, uno dei padri del pensiero liberale classico, deciso oppositore di Napoleone, dal quale peraltro avrebbe poi accettato una carica, autore di alcuni scritti politici e letterari tra i più importanti del suo tempo e diviso tra la passione per la politica e quella per la letteratura. Constant fu insomma una personalità vivace, inquieta, colta, nonostante gli studi faticosi di cui qui abbiamo alcune gustose descrizioni. Fu anche molto sensibile alle grazie femminili, insomma fu un tipico rappresentante dell'Europa rivoluzionaria prima e di quella napoleonica dopo, anche se il suo racconto si interrompe prima della Rivoluzione Francese, appunto al 1787. Lo lasciamo dunque a 20 anni, ma in quel periodo ha già girato mezza Europa, ha conosciuto molte donne, ha perso un sacco di soldi al gioco e ha scoperto veramente il mondo e la vita, e ci presenta queste sue scoperte in questo libro famoso con gli occhi di un ventenne smaliziato che in poche pagine ci dà un ritratto del suo tempo che in certe pagine è degno di Casanova. Per esempio sentite queste righe che ci riportano un tema di cui abbiamo molto dibattuto in queste settimane anche da questa radio, quello del vino. Dopo la sbronza di Lynn, mi era venuto un fiero disgusto del vino. Sicché, durante la sosta nella locanda di Trapston, avevo bevuto soltanto acqua. Tale astinenza, poco comune in Inghilterra, dove gli astemi sono mosche bianche, era sembrata veramente scandalosa al locandiere. Non fu lui stesso a parlarmene, bensì quel tale che mi aveva noleggiato il cabriolet che io feci venire per stipulare con lui un altro contratto. Allorché mi lagnai per il modo in cui si era comportato suo figlio, il buon uomo mi rispose: «Ah, signore, si dicono sul vostro conto cose molto singolari». Ciò mi stupì molto e insistetti per saperne di più. Allora lui soggiunse: «Da quando siete qui, non avete bevuto neppure una goccia di vino». Trasecolai. Ordinai subito una bottiglia, ma ormai la pessima impressione da me fatta, come astemio, si era talmente radicata che non potei ottenere nulla. E di Benjamin Constant, Liberi Libri ha pubblicato uno dei testi politici più importanti, Lo spirito di conquista e l'usurpazione, del 1813, è tradotto da Carla Maggiori, 206 pagine, 17 euro, un testo che fu forse dettato anche dal desiderio di acquisire o di ribadire meriti antinapoleonici, ma che resta un classico del pensiero politico moderno. Prima di lasciare la linea alle informazioni sul traffico, vi ricordo che dal 9 settembre ha inizio a Mantova Festival Letteratura, giunto alla 13ª edizione. Quest'anno, come tutte le altre precedenti edizioni, vede la partecipazione di molti letterati e scrittori, tra cui un premio Nobel, Nadine Gordimer, e ci sono molti appuntamenti, come sempre, in particolare alcune nuove iniziative, per esempio da quest'anno una retrospettiva, una formula che imita quella dei festival cinematografici, che quest'anno viene dedicato ad Amitav Ghosh, di cui quindi si potrà approfondire in tre incontri la conoscenza attraverso le opere dello scrittore indiano. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Una biografia, anzi tre in un libro solo, di tutt'altro genere, sono quelle raccontate, ma soprattutto disegnate, da Altan in I nostri antenati, tre biografie non autorizzate, pubblicato da Rizzoli, 220 pagine, 18 euro. I tre antenati sono Casanova, Colombo e San Francesco, che qui viene familiarmente chiamato Franz. Le storie apparvero su Linus coi titoli Colombo, tragedia di un bighellone, Casanova da mascalzone a signorino e appunto Franz. E quindi capirete che si tratta di tre biografie davvero poco ufficiali, trattate col segno inconfondibile di Altan e con uno stile dissacrante e ironico. Colombo, per esempio, si presenta ai saggi di Salamanca per essere autorizzato al suo viaggio, vorrebbero dargli il via immediatamente, ma poi uno dei saggi, particolarmente sospettoso, dice che bisogna tirarla per le lunghe per non sembrare di aver ricevuto una stecca da Colombo per dargli subito il via. Casanova fugge dai tribunali ecclesiastici. San Francesco deve intavolare una complessa trattativa perché venga riconosciuto il suo ordine al prezzo di dover andare in Siria. Insomma, delle storie particolari che ci fanno riscoprire tre figure fondamentali della nostra storia. Una biografia ufficialissima invece di San Francesco, anzi quella più ufficiale di tutte, è quella classica di Bonaventura da Bagnoregio, che nacque nel 1217. Fu un grande teologo, ministro generale dei francescani e parigino d'adozione. E proprio a Parigi Bonaventura scrisse probabilmente questa leggenda intorno al 1262, che venne considerata subito come la fonte ufficiale di documentazione sulla vita di San Francesco. Il libro adesso c'è riproposto col titolo Legenda Maior, vita di San Francesco, è curato da Pietro Messa per Le Paoline, 360 pagine, 29 euro. E la vita è naturalmente ricca di riferimenti all'esistenza di San Francesco, di cui vengono raccontati certamente gli episodi più significativi, ma nella chiave interpretativa di un grande teologo, quindi con finalità che non sono soltanto di ingenua diffusione del culto del santo, ma che vogliono viceversa consolidare la dottrina cattolica alla quale Francesco aveva dato in un momento di grande incertezza un fortissimo sostegno. E infatti lo troviamo definito in questo libro la Aldo di Cristo, imitatore della purezza evangelica. Veniamo invece a una cronaca contemporanea, l'Italia raccontata da due giornalisti. Il primo è Francesco Merlo, che attualmente lavora con Repubblica. Il libro si intitola FAQ Italia, che vuol dire Frequent Asked Questions. È pubblicato da Bompiani, 178 pagine, 10 euro. L'Italia, insomma, domanda e risposta, è riassunta anche in un cruciverba presente nel libro. L'Italia di Merlo parte da molti luoghi comuni, alcuni sono criticati dall'autore, altri forse sono anche un po' coltivati da Chisto e O Paese do Sole, fino a una ricerca su quelli che sono i caratteri fondamentali e unitari della personalità degli italiani. Il ritratto che emerge è impietoso. Abituato a vederla da Parigi, forse in Merlo prevale la visione pessimista e meno attraente del paese, una visione basata sul conformismo imperante, sul tirare a campare, sulla prevalenza assoluta dell'interesse personale. L'Italia, insomma, per Merlo resta uno strapaese, un paese di spaghettità, di cui Berlusconi, secondo l'autore, è il campione. Un paese, rassegnatevi, che non trova né conforto nemmeno nella lettura, come ci spiega l'autore in queste righe. A tradire il libro in Italia sono gli editori e le grandi librerie, intellettuali di prim'ordine, gente colta e tuttavia smagata che vive di libri e tra i libri, che è stata formata e deformata dai libri, a l'âme de papier, e ha dunque con il libro la stessa connivenza che aveva Charlie Chaplin con la palla del mondo, e perciò la prendeva a calci e a testate. Certo, quello di Chaplin era il mappamondo fisico, la riduzione concentrata della geografia del mondo, mentre il libro è un mappamondo mentale, che appunto si può e qualche volta si deve anche prendere in giro. Ma in Italia si esagera. Nelle grandi librerie italiane non trovi i libri che cerchi e che ti servono, ma vieni ormai aggredito da un'infinità di titoli imposti da quell'industria delle patacche che è organizzata scientificamente dagli editori, i quali, anziché scovare e covare i talenti, puntano sui libri dei giornalisti, ahimè, dei comici, dei cantanti, dei politici, e ovviamente contano sulle recensioni degli amici degli amici, su quelle prose ben scritte dal famoso aforisma di Flaiano: quando si recensisce il libro di un amico, è doveroso paragonarlo a Hegel. Ogni volta che esco da una grande libreria italiana, mi sembra di avere partecipato a una di quelle feste conviviali organizzate sempre dalla stessa combriccola di intellettuali, che si celebrano e si premiano a turno. Ecco, in Italia, fare spesa in libreria è come farsi complice delle premiazioni truccate. Come mangiare e bere da piatti e da bicchieri vuoti, ma alla fine alzarsi con il ventre pieno. Gli intellettuali dello strapaese la dicevano così: leggere è niente. Il difficile è dimenticare ciò che si è letto. A proposito di recensione degli amici, sappiate che con Merlo in epoca preistorica fummo anche compagni di scuola. L'altro giornalista è Enrico De Aglio, medico di formazione, giornalista e scrittore, che ha scritto un libro singolare e complesso, Patria, 1978-2008, è pubblicato dal Saggiatore, 940 pagine, 22 euro. Il libro è sottotitolato Fonti, curiosità e spunti di ricerca ed è curato da Andrea Gentile. Questi spunti danno vita a un volume imponente, come avete sentito, oltre 900 pagine, nel quale ripercorriamo anno per anno la cronaca italiana leggendo le notizie in presa diretta. Non si tratta di un'antologia, ma è la scelta ragionata dei fatti più significativi che hanno segnato ogni anno a partire dal sequestro di Aldo Moro nel 1978. Questi fatti vengono brevemente presentati e ricontestualizzati sulla base anche degli elementi che sono emersi successivamente a quando si verificarono. De Aglio, sappiamo, è un esponente di sinistra, ha una visione partigiana dell'Italia, del paese, ci offre una lettura spesso discutibile, ma l'operazione è molto interessante anche per tirare le fila di questi 30 anni nei quali ci sono anche i musicisti e gli scrittori che pure hanno dominato e contribuito a fare quegli anni. Sentite per esempio queste righe dedicate a Lucio Dalla, che illustra la musica del 1987. Noterete lo stile del libro: secco, asciutto, cronachistico. Lucio Dalla, bolognese, 43 anni, ha già una carriera ventennale alle spalle. Negli anni 70 ha scritto 3 album con il poeta Roberto Roversi, ma poi la collaborazione è cessata perché il poeta voleva parlare ancora essenzialmente con un linguaggio politico. Sono trascorsi già 9 anni dal successo di Com'è profondo il mare, che Roversi ha commentato così: Dalla ha voluto semplicemente essere lasciato in pace a cantare il niente. Quest'anno, nell'album Dall'America Caruso, scrive un brano che diventerà presto un classico della musica italiana, Caruso, in cui Dalla racconta gli ultimi giorni di vita in un albergo di Sorrento del tenore Enrico Caruso, morto 65 anni fa. Concludiamo questa lunga lettura con qualche giallo. Comincio con uno italiano ed è un libro di Augusto De Angelis, Il commissario De Vincenzi, pubblicato da Sellerio, 578 pagine, 18 euro. Per la verità qua troviamo tre gialli, questa è una raccolta che ci permette di scoprire o di riaccostarci a quello che è stato uno dei protagonisti della letteratura poliziesca italiana, cioè appunto Augusto De Angelis, uno scrittore vissuto tra il 1888 e il 1944, quando venne percosso a morte da un picchiatore neofascista, che è stato uno dei padri, se non il padre, del giallo italiano, creando proprio questa figura di investigatore, il commissario De Vincenzi, che opera nella Milano degli anni 30, un investigatore particolare, colto un po' eccentrico per i colleghi, soprattutto appassionato di psicologia. E qui lo vediamo all'opera in tre storie: Il candeliere a sette fiamme, La barchetta di cristallo, Giobbe Tuama NC. L'autore De Angelis fu appunto un autore esemplare, perché creò un genere, lo arricchì con una produzione molto interessante e molto ricca. Interessante anche dal punto di vista letterario, per la sua capacità di mantenere alta la tensione e l'attenzione e di seguire un modello originale, come lui stesso aveva spiegato. De Angelis infatti scrisse: «Mi sono proposto di fare romanzi polizieschi in cui le persone vivano secondo natura, in cui la vittima, il colpevole, il detective abbiano muscoli, sangue, cuore e anima». A De Angelis non bastava dare la soluzione, fare scoprire l'enigma, ma voleva creare, come scrisse sempre lui, delle figure letterarie che, a differenza di quelle dei gialli americani, avessero spirito, avessero anima. Il primo volume della serie del commissario De Vincenzi è stato appena ripubblicato sempre da Sellerio, Il banchiere assassinato, 12 euro, 212 pagine. Un giallo che si svolge in Italia, o meglio parte dall'Italia, è quello di I. Biggi, che è un autore basco, si chiama La formula Stradivari, pubblicato da Nord, 412 pagine, 18,60 euro, tradotto da Claudia Marinelli. A Cremona nel 1680 il grandissimo liutaio Antonio Stradivari viene incaricato di costruire 12 strumenti che racchiudono un segreto, e questo segreto ci riporta poi al mondo d'oggi, alla Madrid contemporanea, alla ricerca di una misteriosa formula risalente a Pitagora, che era chiusa appunto in quegli strumenti. Insomma, un giallo per musicisti. Interessante anche un giallo che viene dalla Svezia, La traiettoria della neve, che è stato scritto da un giovane avvocato svedese, Jens Lapidus, il quale ha rapidissimamente scalato le classifiche dei libri più venduti nel suo paese e che, nonostante il successo, continua a fare l'avvocato. Il libro è pubblicato da Mondadori, 536 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Barbara Fagnoni. Stoccolma è tutt'altro che una città idilliaca, come magari noi ce l'immaginiamo. Anche a Stoccolma la droga corre a fiumi, i giovani pensano solo, oltre che alla coca, al sesso e ai soldi, e troviamo qua tre vite esemplari: un giovane pregiudicato sudamericano, autore di un'evasione da manuale, uno slavo esponente di secondo piano della malavita che controlla il mercato della droga e il mercato dei guardaroba, non sapevo che anche questo fosse un filone criminale, e forse la figura più significativa, un ragazzo, Johan Westlund, di origini modeste ma divorato dall'ansia di essere o di apparire come i coetanei ricchi, una tentazione che gli farà imboccare una strada pericolosa. E a questo punto... Il confettino. Passiamo rapidamente in Giappone con una storia giapponese, Urashima Taro, di Davide Longaretti e Mayuko Tazumi, è pubblicato da Orecchio Acerbo, 24 pagine, 13 euro. Andiamo, per la verità, in fondo al mare del Giappone, nella rielaborazione di un'antica fiaba dell'arcipelago che non perde il suo fascino, grazie anche alle bellissime illustrazioni. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Pietro Daccorte in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro una buona settimana.